in primo piano. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Come forse potete immaginare, inizio dalla Germania e non tanto per il mio amore per la Germania e per il mio essere in parte tedesca, ma perché domani, finalmente, dico finalmente perché è stata una campagna elettorale molto lunga, forse troppo poco seguita, perché è un'elezione, quella di domani, molto importante per tutta l'Europa, non abbastanza seguita in Italia, naturalmente intendevo, le elezioni politiche in Germania. È quasi certa la vittoria della CDU di Angela Merkel e quindi la conferma di Angela Merkel per un quarto mandato come cancelliera, e se ci riuscirà equivalerà il record stabilito dal suo mentore Helmut Kohl, che è poi l'uomo al quale dobbiamo la riunificazione della Germania. Il Spiegel, che è uno dei due principali magazine tedeschi di attualità, l'altro è Stern, ha pubblicato un servizio bellissimo corredato da molti dati, fatto veramente un esempio di fior di giornalismo, di obiettività, di numeri che non necessariamente devono sostenere delle opinioni, devono semplicemente aiutare a farsi un'opinione. E questo articolo è stato tradotto interamente da Vox Europe, che come sempre lodo per l'opera appunto di rendere accessibile da tante lingue diverse le informazioni che riguardano l'Europa e non solo. Il titolo dell'articolo è «La merkelizzazione dell'Europa». Il debutto a Bruxelles non era stato dei peggiori. Dopo il suo primo vertice rappresentante della Germania all'Unione Europea, e parliamo del dicembre 2005, il Berliner Zeitung la definiva la nuova stella del firmamento europeo, mentre Die Welt le riconosceva un'abilità straordinaria nell'attuazione delle sue politiche europee. Quando era ancora una novizia dell'Unione Europea e cancelliera da poche settimane, il Financial Times l'aveva già promossa a Lady Europa, e questo, ripeto, parliamo del 2005, cioè all'inizio del primo mandato di Angela Merkel. Questo, il senso dell'articolo è che oggi, lo sappiamo, e in Germania c'è anche, in Italia c'è anche, lo ha sottolineato anche Oscar Giannino nella sua trasmissione del pomeriggio andata in onda giovedì scorso, che mi ha molto, molto colpita, molto interessata, anche per la partecipazione di Tonia Mastrobuoni, che è corrispondente dalla Germania per la Repubblica, che ha spiegato come nei Länder dell'Est si stia polarizzando incredibilmente l'elettorato tra partiti di estrema destra e di estrema sinistra. E quindi il fatto è che anche in Italia si sta diffondendo un sentimento antitedesco, e questo articolo di Spiegel dice: considerata come la più potente fra i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, si presenta, ma che cosa ci dicono i numeri su come è cambiata la Germania e l'Unione nei 12 anni del suo governo? Vi dico, veramente è in italiano, questo articolo è stato tradotto, se vi interessa la situazione e magari volete fare una piccola scommessa su cosa succederà, non tanto sul risultato, perché Angela Merkel vincerà, ma sulla coalizione che dovrà costruire, potete leggerlo appunto all'indirizzo www.voxeurope.eu. Brevemente la copertina della Zeit, che naturalmente è dedicata a questo, con un titolo: Warum rückt das Land nicht nach links? Perché il nostro paese non va a sinistra ma va piuttosto a destra. E sapete che per la prima volta probabilmente entrerà in Parlamento quel partito di estrema destra che si chiama AfD, Alternative für Deutschland, che è un partito appunto di estrema destra e non di estrema sinistra. La copertina dell'Economist di questa settimana è dedicata alla ricerca sul cancro, Closing in on Cancer. Il cancro è circondato, questo è il senso, e naturalmente si spiega quali sono queste nuove terapie. Soprattutto è significativa l'illustrazione, perché da una parte il bersaglio mostra come i colpi stiano cominciando ad andare a segno, se il bersaglio è il cancro, ma soprattutto c'è anche l'idea che appunto il cancro, come del resto anche molte altre malattie, verrà curato già oggi, ma sempre di più in futuro, con terapie mirate. Passiamo a internazionale. Internazionale ha tradotto un interessantissimo articolo, sempre dell'Economist, ma di qualche settimana fa, di quegli articoli di divulgazione scientifica che a me affascinano sempre molto. Questo è intitolato "Errare è umano, ammetterlo è difficile". Raramente gli economisti riconoscono di aver sbagliato, e potremmo fare l'elenco di quante previsioni sbagliate sono state fatte non negli ultimi anni, ma negli ultimi decenni. Spesso però i loro errori hanno conseguenze gravi per la società e anche per la credibilità della categoria. Quindi un invito un po' a fare un po' di mea culpa, perché poi errare potremmo dire economicum est anziché humanum, assolutamente, anche perché l'economia, che alcuni economisti, per anche così prendersi un po' in giro, chiamano la scienza triste, forse proprio perché, come accade forse un pochino anche ai meteorologi, sanno loro stessi che è molto difficile assicurare che le previsioni sono sicure al 100%, la chiamano quindi la scienza triste. Però forse, insomma, un po' di autocritica in più quando i fatti dimostrano che le previsioni erano sbagliate servirebbe a loro, ma, come scrive l'Economist, anche alla società. Vi segnalo, sempre sulle elezioni della Germania, poi prometto passo ad altro, un articolo scritto da Friedrich Schneider, sempre per Vox Europe, sul ruolo che avrà l'elettorato di origine turca in Germania. La vignetta scelta per illustrare questo articolo vede il simbolo della Turchia, che sapete è quella luna con la stella, quella mezzaluna con la stella, un palloncino con i tre colori della bandiera della Germania che si avvicina alla stella e quindi sicuramente avrà la peggio, quindi scoppierà. Il problema è che Erdogan, come abbiamo sentito nei mesi scorsi, ha invitato i turchi che risiedono in Germania e hanno diritto di voto a non votare per Angela Merkel, e questi sono 1,25 milioni di persone. Quindi ci si chiede quanto questo appello avrà successo e soprattutto per chi andrà a votare questa parte di elettorato, ora che il leader politico della Turchia ha dato questa indicazione con i suoi toni poco concilianti e molto assertivi, diciamo così, per usare un eufemismo. Vi segnalo anche, appunto, come promesso, cambiamo argomento, cambiamo anche paese. Sapete che il caso del Movimento 5 Stelle giustamente è stato molto interessante da osservare anche dall'estero, per chi si occupa di politica e non solo. Uno dei giornali in Francia che ha seguito con maggior costanza l'evoluzione del Movimento 5 Stelle è Le Monde, e quindi questa settimana ha dedicato un articolo a Di Maio, perché sapete che il vicepresidente della Camera si è candidato ufficialmente a premier se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere le elezioni o comunque riuscire a formare una coalizione per governare nella prossima legislatura, che, se salvo imprevisti dell'ultima ora, dovrebbe iniziare dopo le elezioni politiche che si terranno in primavera. Le Monde quindi titola Di Maio, un delfino alla destra di Grillo. In questo articolo si parla di questo giovane deputato che prenderà la guida del Movimento 5 Stelle in vista delle legislative previste per il marzo 2018. Il giovane vicepresidente della Camera dei Deputati italiano può dormire tranquillo, scrive Le Monde, perché tra i 7 candidati interni al movimento nessuno sembra essere in grado di rubargli il posto. Le Monde spiega anche che questo leader si è ritagliato, tutto sommato in poco tempo, il suo spazio, diventando anche, questo lo sappiamo, un invitato regolare nelle trasmissioni televisive italiane. Poi si dà conto però anche delle opposizioni interne, anche di esponenti del Movimento 5 Stelle che per ora non hanno la stessa ambizione, cioè di candidarsi a premier, come Roberto Fico. Le Figaro invece ha ospitato un'intervista a Marco Minniti, il nostro ministro dell'interno, che ha riscosso, come sapete, in tutti i vertici europei in cui ha potuto presentare i risultati della stretta sulle politiche migratorie dell'Italia, che quindi anche sono a tutti gli effetti politiche europee, e quindi ha rilasciato questa intervista alle Figaro. Non abbiamo ancora risolto il problema dei migranti, ma cominciamo a intravedere la luce in fondo al tunnel. Marco Minniti ha spiegato alle Figaro anche se probabilmente molti dei suoi lettori ne erano in qualche modo a conoscenza, che l'accordo stabilito dall'Italia con il governo libico di al-Sarraj ha portato dall'inizio dell'anno una diminuzione del 22% degli arrivi di migranti sulle coste italiane e del 35% dei passaggi alla frontiera sud della Libia, quella con il Niger. Questi dati, secondo Minniti, sono confortanti. Naturalmente smentisce l'orribile accusa che questa diminuzione sia legata a un finanziamento ai trafficanti di esseri umani. Ricorda di aver già smentito queste accuse e ribadisce che tutti, non solo l'Italia, dovranno sicuramente impegnarsi sempre di più per rendere i campi dei rifugiati che ci sono in Libia il meno orribili possibili, mettiamola così, perché un campo rifugiati, chiunque ne abbia visto anche solo delle fotografie, sa appunto che inferno sulla terra possa essere. Era l'ultima segnalazione per oggi, vi ringrazio per magari avermi concesso così questa attenuante di dare un po' più spazio del solito alla Germania. Vi auguro un buon sabato, ci risentiamo sabato prossimo.